A bordo campo di Dario Ricci. Oggi a bordo campo andiamo davvero lontano, per raccontarvi una storia di sport, solidarietà, una sfida. È una storia di una campionessa italiana che oggi è andata in Africa per insegnare sport, ma anche per conoscere qualcosa di nuovo, di diverso, di questo straordinario continente e anche, perché no, anche di se stessa. E allora, in diretta da Dar el Salaam, Tanzania, benvenuta a Valentina 40. Benvenuta Valentina qui a Radio 24 a bordo campo. Ciao, grazie. Grazie. Come va? Beh, direi bene qua a Milano, cara Valentina. Quello che mi incuriosisce è sapere subito invece come va a Dar el Salaam, Tanzania. Perché? Perché Valentina 40, per chi non lo sapesse, 28 anni, 8 scudetti di hockey tra Prato e Indore, è una delle grandi campionesse italiane dell'hockey Prato in gonnella. Ora, il fatto che tu ti stia trovando in questo momento in Tanzania mi fa venire qualche interrogativo. Che ci stai a fare laggiù, Valentina? Tra l'altro con mazza e pallina sempre in borsa. Con mazza e pallina, sì. Le mazze e le palline le ho portate, quando sono partita l'ho messa nel borsone. Qua in Tanzania lavoro principalmente, e quando non sono a giocare ho che lavoro, mi capita anche di lavorare, insomma. Oh, meno male, va, almeno muoviamo il PIL della Tanzania. Sì. Allora, lavoro per un'ONG italiana che si chiama COP, che sta per Cooperazione Paesi Emergenti, e qua mi trovo a Dar es Salaam per lavorare nell'ufficio di coordinamento di questo ONG, che qua in Tanzania ha una serie di progetti di sviluppo nel campo dell'educazione, dell'agricoltura, del women empowerment e della salute. Quindi già ho fatto sempre con questa ONG il servizio civile internazionale 2 anni fa, e poi dopo un anno sono tornata a casa e dopo un periodo più o meno di un anno in Italia sono poi ritornata a lavorare per questo ONG. Ecco, il classico mal d'Africa, no Valentina? Perché insomma hai fatto questa esperienza mentre ancora, e lo sai, giovanissima, all'apice della carriera, e la Tanzania ti è rimasta dentro, no? Anche quando sei tornato nella tua Bra, vicino Cuneo. Esatto, sì, no, principalmente quello è il motivo appunto per cui sono tornata, perché comunque è un paese molto bello, una cultura molto diversa dalla nostra e era bello ritornarci. Chiaramente occhio di riguardo, immagino, adesso fra poco arriviamo a parlare di hockey, hockey su Prato, ma occhio di riguardo per la condizione femminile, no? Che situazione hai trovato in Tanzania rispetto all'universo femminile? In Tanzania, ma un po' come anche in altri paesi africani, sicuramente la condizione della donna non è come siamo abituati a concepirla noi, insomma, specialmente ancora nelle zone rurali, comunque la donna vive una condizione svantaggiata rispetto all'uomo in termini di possibilità per il futuro, insomma. Molto spesso diciamo avere delle possibilità oltre il matrimonio, oltre la famiglia, oltre il ruolo di madre e di moglie, non tante riescono ad avere alternative. Esistono sì zone molto povere in cui anche la condizione soprattutto della donna è molto difficile, però comunque è un paese che si sta sviluppando e che sta crescendo e che ha voglia di crescere. Ecco, anche questo Valentina accade anche su un campo di hockey su Prato, no? Perché sei partita come cooperante, mazza e pallina nel borsone, perché la passione chiaramente uno se la porta dentro ovunque vada nel mondo, e oggi tu hai anche un ruolo ufficiale non di poco conto, no? Per l'hockey su Prato femminile in Tanzania. Sì, diciamo che è capitato tutto un po' per caso, ma che sono partita con l'intento. Sentite questa storia perché è davvero divertente questa storia che ci racconta Valentina. E tu oggi, svegliamolo, sei il CT della nazionale femminile di hockey su prato della Tanzania. Titolo non di poco conto, insomma. Sì, che voglio dire, anche se ci penso mi fa ridere perché è tutto iniziato veramente così. Allora, io ho portato un po' di maschi e un po' di palline perché sapevo che ad Arestam c'era una squadra di maschi, però, e poi quando ho saputo appunto di ritornare, ho portato un po' di, ho raccolto un po' di bastoni, un po' di palline, un po' di materiale grazie alla mia squadra di Dra che hanno contribuito e niente, quindi quando sono arrivato poi ho iniziato un po' ad allenarmi con i maschi perché non sapevo appunto che c'era la squadra femminile. E poi abbiamo iniziato a fare con quel materiale che ho portato a fare anche un po' di scuola ai ragazzini di una scuola qua vicino al campo da hockey. Che campo da hockey non si può dire, ecco, è ecco, un insomma, campo di terra e pietre e buche, insomma, non diciamo è, che non è un campo... migliora la tecnica nel controllo di palla, dai, diciamo così, vediamola in positivo. Sì, quello è vero, sì, però impedisce anche di fare anche altri colpi che ormai l'hockey odierno richiede di fare, per cui è limitante, comunque onestamente è un campo limitante sicuramente, però non esiste un altro campo, per cui ci alleniamo su quello. Ecco, le ragazze che stai allenando, di che livello sono? Come hanno preso soprattutto il tuo arrivo? Perché insomma avere una campionessa italiana sulla propria panchina credo che tutto sommato conferisca anche maggiore fiducia e anche la consapevolezza di fare qualcosa di ancora più importante anche nel rappresentare il proprio paese, no? All'inizio veramente non c'era la squadra, per cui è nato tutto da una discussione con tra me e Magan, che è appunto l'altro allenatore, e con la federazione tanzaniana, in cui appunto è nato un po' questo sogno di ricreare, di mettere su di nuovo la squadra femminile. Per cui piano piano abbiamo rintracciato tutte le ragazze che all'epoca, 5-6 anni fa, giocavano a hockey, poi per mancanza di fondi, mancanza di denaro da parte della federazione tanzaniana, avevano smesso totalmente di allenarsi, per cui nel frattempo si erano sposate, chi aveva fatto, ha messo su famiglia, chi aveva trovato lavoro, insomma, per cui abbiamo letteralmente resuscitato la squadra dopo 5-6 anni. Adesso c'è proprio questo impegno importante in calendario, l'African National Cup a Nairobi, e serve anche però l'aiuto internazionale, no? Per far sbarcare finalmente questa nazionale su un campo degno di questo nome. Diciamo che poi la nostra avventura si intreccia anche con i fatti che purtroppo abbiamo sentito, insomma, degli attentati terroristici che ci sono stati a Nairobi la scorsa settimana, per cui l'Africa Cup of Nations, che in principio era programmato dal 26 di settembre al 5 di ottobre, è stato inizialmente posticipato di 4 giorni, quindi dall'1 al 5 di ottobre, perché due squadre si sono ritirate, la Nigeria e la Namibia. Però poi il mercoledì scorso è arrivata la chiamata della Federazione Internazionale che ci ha detto appunto che la federazione aveva deciso di posticipare il torneo per via della sicurezza, per cui abbiamo fatto i bagagli, siamo tornate a casa e adesso siamo ad Arestam, siamo tornate sabato e adesso aspettiamo che ci dicano quando e dove, insomma, si rifarà il torneo. Una sfida, ma anche un'odissea tutta africana, no? Quella che ci sta raccontando, che ci ha raccontato Valentina 40. Beh, allora Valentina, è un grande in bocca al lupo per questa African National Cup che prima o poi, speriamo prestissimo, arriverà per la tua Tanzania. Vale la pena anche di ricordare la tua mail, perché c'è l'occasione, l'opportunità di aiutare questa nazionale in tanti modi, non solo con il tifo, ma anche con un aiuto in qualche modo più concreto. Allora, chi vuole contattare Valentina può farlo a valentina.40@gmail.com. Avete la possibilità di entrare in contatto con il CT della nazionale femminile della Tanzania di hockey su prato e soprattutto con un atleta che rappresenta l'Italia sul campo, sì, ma anche appunto a bordo campo, no Valentina? Sì, diciamo un po' perfetto, insomma, sentire queste cose, però sì, insomma, diciamo che se qualcuno ci vuole dare una mano, appunto quello è l'indirizzo, che è il mio indirizzo mail, e poi c'è anche il blog che abbiamo scritto in questi mesi, che è okaytanzania.com, dove c'è anche un po' la storia del progetto, insomma un po' di foto per avere un'idea di quello che è successo, di quello che vorremmo fare e un po' del sogno che stiamo rincorrendo piano piano. A Nairobi ci andiamo, prima o poi ci andremo, per cui insomma se qualcuno vuole appunto vedere il blog e capire un po' la nostra storia, quello è okaytanzania.com. E allora, forza Tanzania, tutte a Nairobi, e grazie a Valentina 40 per essere stata oggi nostra ospite qui a Radio 24 e a bordo campo. Grazie a te, grazie mille dell'opportunità e un saluto all'Italia qua, della calda Tanzania.